L'alba estiva sull'Arno era un dolce gioco di luce dorata. Matilde si fermò a contemplarla, godendosi la bellezza della sua amata Toscana e lasciando che le lacrime le rigassero il viso. I fiumi di quella regione, l'Arno e il Serchio, le scorrevano davvero nelle vene. Esserne privata per un qualsiasi periodo di tempo era una condanna all'inferno. Forse era addirittura peggio che essere costretta a sposare un gobbo. Le sembrava quasi che avrebbe potuto sopportare l'orrore di quel matrimonio imposto se avesse potuto continuare a vivere in Toscana. Ma questo era impossibile. Per qualche ragione, Dio aveva decretato che Matilde dovesse non solo sposare il gobbo, ma anche essere strappata alla sua patria. Ora avrebbe cercato di capire il perché e dopo averlo compreso, si sarebbe arresa alla sua volontà. Isabella la stava aspettando al cancello che separava la proprietà dell'ordine dalla strada principale. Un ciuffo di alberi riparava ulteriormente lo spazio sacro da occhi indiscreti e loro imboccarono il sentiero che Matilde avrebbe potuto percorrere anche a occhi chiusi, per quanto lo conosceva bene e per quanto lo amava. Il sentiero terminava in uno spiazzo dove l'enorme labirinto era stato costruito con cura, secondo i principi di Salomone e della regina di Saba, con mattoni e pietre conficcati nel terreno per creare gli 11 passaggi circolari che conducevano al centro. Mentre il labirinto originario di Salomone conteneva un centro perfettamente rotondo, questa versione era stata realizzata appositamente per culminare in una rosa a 6 petali, il simbolo del libro dell'amore, così come era stato disegnato da Gesù. Il labirinto adesso era un prodigioso incrocio formato dagli insegnamenti saggi di Salomone il Grande e dalla preghiera fondamentale del suo discendente, Gesù stesso. Quando arrivò Matilde, il maestro era al centro che pregava in ginocchio. Fra Patrizio, il giovane pupillo calabrese, sorrise Matilde dall'entrata. Lei lo salutò sottovoce, non volendo disturbare il maestro durante la meditazione, ma lieta di vederlo. Erano stati iniziati insieme ai segreti dell'ordine, seduti fianco a fianco ai piedi del maestro. Si erano interrogati a vicenda, avevano studiato insieme, avevano fatto giochi di memoria che consentissero a ciascuno di loro di imparare a menadito il libro dell'amore e le profezie del libro rosso. Insieme avevano studiato i disegni architettonici di Salomone, intricati e ispirati dal divino, così come erano stati tramandati per essere inclusi nel libro dell'amore. Quelle erano state le lezioni più intense e difficili, e studiarle con un compagno aveva reso più facile assimilare le informazioni. Entrambi i bambini si erano rivelati così esperti dei disegni del tempio che il maestro più di una volta aveva affermato che sarebbero diventati mirabili architetti. Gareggiavano tra di loro per avere l'attenzione e le lodi del maestro, mentre si impegnavano con il massimo impegno nell'apprendimento. Patrizio era diventato il fratello che Matilde aveva perso da piccola. Il maestro li punzecchiava, dicendo che erano due metà della stessa mente. Lasciare Patrizio sarebbe stato straziante per la sua anima. Il maestro percorse gli 11 cerchi e fece un profondo inchino verso il labirinto quando raggiunse l'uscita entrata. Fece qualche altro passo verso di loro e si inginocchiò a toccare l'anello di ferro inserito nel terreno. Ringraziò, a occhi chiusi, la signora del labirinto per i suoi doni e andò ad abbracciare Matilde. Benvenuta, figlia mia. La baciò su entrambe le guance. Questa è davvero una mattina gloriosa perché la volontà di Dio si rende manifesta. Conserverò la mia conoscenza per quando tu avrai trovato la tua. Solvi tu rambulando, bambina. Vai a parlare con la provvidenza. Indicò il labirinto con un ampio gesto. Isabella, Patrizio e il maestro si allontanarono e si tennero a una discreta distanza in modo da consentire a Matilde di usufruire di tutto il suo spazio. A volte camminavano lì dentro tutti insieme, in una bella danza di cameratismo e condivisione, ma quella mattina era tutto per lei. Matilde li ringraziò e poi si avvicinò all'anello di ferro nel terreno, si inginocchiò per rendere grazie alla signora del labirinto. Con il tempo la signora acquisiva varie sembianze perché era il divino femminile, l'essenza dell'amore e della compassione, l'amata femmina che completa il maschio attraverso l'unione di amore e spirito, fiducia e consapevolezza. Era Arianna, era la regina di Saba, era Maddalena, era Asherah. In onore della favolosa signora del labirinto, Arianna, Matilde si strappò una lunga ciocca di capelli ramati dalla testa e la legò con un nodo nuziale all'anello di ferro, per imitare il filo che aveva salvato Teseo. Mentre si avvicinava all'entrata del grande spazio, si ricordò quello che le aveva detto il maestro tanti anni prima, quando vi era entrata per la prima volta. Non c'è un modo corretto di percorrere un labirinto e non c'è un modo sbagliato. C'è solamente il tuo modo. Vai all'andatura che ti detta la tua anima e resta fedele al tuo percorso. Dopo aver tirato diversi respiri profondi per sgomberare la mente, Matilde entrò nel labirinto. Camminò adagio quel giorno di proposito, guardandosi i piedi mentre percorreva i cerchi nel desiderio di lasciarsi alle spalle tutto il rumore del mondo vigile e consapevole che le riempiva la testa. Per lei il movimento legato al labirinto era il miglior balsamo per la mente. Non era brava a starsene seduta a pregare o a meditare per lunghi periodi di contemplazione, era uno spirito troppo inquieto per fare qualcosa che implicasse tanta calma. La maggior parte degli esseri umani lo sono, ma nel labirinto poteva muoversi, riflettere e sentire tutto nello stesso momento. Era la forma di preghiera più gloriosa che riuscisse a immaginare. Respirare, purificarsi, camminare, seguire i sentieri tortuosi, liberarsi di tutte le scorie. Quella mattina aveva deciso di camminare con uno scopo ben preciso e quello scopo era capire il suo destino. L'attesa non fu lunga, una visione l'attendeva al centro del labirinto. Matilde cavalcava in mezzo a una rigogliosa e verdeggiante foresta. Suo malgrado doveva riconoscere che il posto era molto bello. Patrizio era al suo fianco, era montato in sella con lei quando Matilde aveva sentito il bisogno di fuggire da Verdun. Avevano cavalcato senza sosta, dato che stare in groppa a un cavallo era l'unica cosa che le dava conforto. E poiché non c'erano labirinti, andare a cavallo era l'unica via di fuga, un'occasione per muoversi e riflettere allo stesso tempo. Si fermarono quando raggiunsero un piccolo stagno alimentato da un torrente, in modo da poter abbeverare i cavalli e mangiare un po' del pane e formaggio che Matilde aveva portato per pranzo. Patrizio condusse i cavalli al torrente. La visione poi continuava. Matilde continuava a camminare verso quella che sembrava una radura. Era attratta da qualcosa che all'inizio non riuscì a spiegarsi e poi la sentì, la voce di una ragazzina. Non riusciva a distinguere le parole, ma sapeva che era una bambina. Parlava con lei, la chiamava. La sentì ridacchiare mentre si avvicinava alla radura. I raggi del sole pomeridiano brillavano attraverso gli alberi, riflettendosi su quella che sembrava una pozza d'acqua proprio davanti a lei. Allettata, Matilde proseguì. Era un pozzo o una cisterna abbastanza grande da consentire a diversi uomini di farci il bagno tutti insieme. Quando si sporse in avanti per guardare nell'acqua, Matilde ebbe l'impressione di trovarsi davanti a un abisso smisurato, che quel pozzo fosse sacro e che sprofondasse nel terreno. L'acqua era ancora calma, ma poi una minuscola increspatura turbò la superficie. Un'onda di luce dorata cominciò a diffondersi nel pozzo e nella zona circostante. Nell'acqua un'immagine cominciava a prendere forma. La scena era una splendida valle lussureggiante e verde, piena di alberi e fiori. La fissava come se stesse guardando in uno specchio magico, quando una pioggia di gocce dorate cadde dal cielo, indorando tutto quello che si trovava nel suo campo visivo. Ben presto la valle fu inondata da fiumi d'oro e gli alberi ne furono ricoperti. Tutto intorno a lei brillava della calda, intensa luce del metallo allo stato liquido. In lontananza sentì la voce infantile, quella che l'aveva attirata fino a lì. Benvenuta nella Valle dell'Oro. Matilde ansimò. La Valle dell'Oro veniva menzionata nella profezia, nella sua profezia. E come per assicurarle che aveva ragione, la voce infantile risuonò dolce e chiara per la foresta, recitando le parole della loro giovane profetessa, pronunciate 1000 anni prima. La verità deve essere conservata nella pietra e e sulla pergamena e costruita in una valle d'oro. La nuova pastora, l'attesa, provvederà alla sua perfezione e custodirà dentro spazi sacri la parola del padre e della madre e l'eredità dei loro figli. Questo è il suo destino. Questo è conoscere un amore grandissimo. La visione finì. Matilde si alzò al centro del labirinto, ancora barcollando per via della forza delle immagini che era certa le fossero state donate dalla piccola profetessa in persona. Mentre si incamminava per uscire dagli 11 cerchi, rivide tutte le sue immagini. Non aveva dubbi che la Valle dell'Oro si trovasse in Lorena. Ecco perché il divino la stava mandando lì, perché voleva che costruisse un santuario per la via dell'amore in quella regione. Che forma dovesse avere non lo sapeva ancora, ma era certa che il maestro avrebbe saputo esattamente che cosa fare. Non aveva forse detto che la volontà divina le sarebbe stata resa nota quella mattina? Ma la gioia più grande derivava dall'aver visto Patrizio nel labirinto. Si voleva che avesse un amico in Lorena, un amico che la capiva davvero in un mondo fatto di usanze straniere, di un marito indesiderato. Forse avrebbe trovato la forza di sopportare tutto con grazia fino alla fine. Sia fatta la tua volontà, si ripeté diverse volte mentre percorreva i sentieri sacri. Quando raggiunse l'uscita, si inginocchiò per ricevere la benedizione dell'anello di ferro e rese grazie alla signora del labirinto che stavolta aveva le sembianze di Sara Tamar. Il maestro non aveva avuto la stessa visione di Matilde, quella era solo sua, era un dono fattole dalla profetessa per non farle perdere la fede, ma aveva avuto una visione di Matilde che costruiva un'imponente struttura in Lorena, che sarebbe divenuta il ricettacolo non solo di tutti i loro insegnamenti, ma anche della storia del loro popolo e delle famiglie sacre. Matilde era stata incaricata di costruire una biblioteca e una scuola per preservare tutto ciò che era sacro per l'ordine del Santo Sepolcro, e lo avrebbe fatto sotto forma di un monastero. Una volta trovata l'ubicazione, quella Valle dell'Oro che lei aveva visto nella sua visione, avrebbe lavorato insieme a Patrizio per cominciare la costruzione. Il maestro avrebbe selezionato alcuni monaci calabresi che avrebbero dato prova della loro dedizione come storici e scribi per avviare la realizzazione della biblioteca. Patrizio sarebbe diventato il loro abate. Questo sarebbe stato un onore immenso, sia per Matilde sia per Patrizio. Perché il maestro aveva visto un altro elemento assai importante nella sua visione. Aveva visto il libro rosso viaggiare attraverso le Alpi nella sua arca dorata, portato con cura da Patrizio su un carro trainato dai buoi, proprio come il volto santo 3 secoli prima. Matilde doveva portare con sé il libro rosso, cosicché il suo contenuto venisse copiato alla lettera e collocato con grande onore nel nuovo monastero, in quella valle d'oro. Una volta portato a termine il compito, avrebbe riportato il libro rosso in Toscana, dove era destinato a risiedere in eterno. Gli insegnamenti della Via dell'Amore stavano per trovare una nuova dimora in Lorena, per essere restituiti alla terra di Carlo Magno. Il destino di Matilde era assicurarsi che ciò accadesse. Malgrado le sue trepidazioni riguardo alle incombenti nozze, questo le dava un grande incarico su cui concentrarsi, qualcosa di positivo nel suo futuro che rivestiva un'importanza enorme. Avrebbe compiuto il suo dovere con onore e grazia. Avrebbe adempiuto al suo destino e ai suoi obblighi di attesa e si sarebbe sforzata con tutta se stessa di non lamentarsi perché doveva sposare un gobbo e vivere nel lusso. E fu così che la bella fanciulla Nazarena, alla cui nascita fu dato il nome di Berenice, in seguito divenne nota come Veronica. Era un'amica di Maria Maddalena da bambina e allieva della via ed era stata istruita come sacerdotessa ai piedi di Gesù, proprio come le sue sorelle Nazarene. Veronica era più giovane e al tempo della passione non era ancora una Maria, non indossava ancora il velo rosso, il suo era bianco. Si narra spesso dell'atto di coraggio della nobile Veronica nel giorno della sofferenza, mentre Gesù portava il suo fardello sulla collina, nel giorno nero del teschio gli si oscurò la vista a causa della sporcizia del sangue che gli colava negli occhi dalle ferite procurategli dalla corona di spine. Veronica si fece coraggiosamente largo fra la folla che circondava il suo maestro e si tolse il velo bianco dal capo. Lo passò a lui in modo che potesse asciugarsi il viso e trovare un po' di sollievo. In seguito si sarebbe scoperto che l'immagine del volto di Gesù era rimasta impressa sulla seta bianca per l'eternità. Veronica assistette Maddalena e le altre Marie ai piedi della croce, una sorella nell'amore e nel dolore. Lì furono protette dal soldato romano dagli occhi cerulei di nome Pretorio, che era stato al servizio privato di Ponzio Pilato. Questo centurione era stato guarito, a una mano spezzata da Gesù, e stava trovando la luce della conversione durante la settimana santa, quando si erano verificati quei terribili avvenimenti. Pretorio si sarebbe trasformato in un diverso tipo di soldato dopo la passione di Gesù. Era destinato a diventare un soldato della via, uno dei primi convertiti della nostra comunità e di certo uno dei più devoti. Nel giorno della resurrezione, Pretorio corse al sepolcro dopo aver sentito del miracolo. Fu lì che parlò per la prima volta con la nostra sorella Nazarena, Veronica. Lei gli raccontò dei grandi insegnamenti di Gesù, della via dell'amore e di come questi avrebbero cambiato il mondo se solo avessimo permesso alla loro verità di entrare nei nostri cuori. Da quel santo giorno di Pasqua, Veronica e Pretorio non si separarono mai più. Un amore come quello nato all'ombra del Santo Sepolcro poteva essere solo benedetto per l'eternità. Lei cominciò a guidarlo attraverso gli insegnamenti nazareni e quando la Nostra Signora Maddalena venne in Gallia per cominciare la sua missione, loro la seguirono e continuarono a essere istruiti sotto la sua guida, direttamente dal libro dell'amore, così come era stato scritto da Gesù. Così essi divennero la prima coppia a insegnare la sacra unione degli amati sul suolo europeo e quelle tradizioni fiorirono in omaggio alla santità del loro amore e della loro unione. Là dove vengono custoditi questi insegnamenti non possono esservi tenebre. Amor vincit omnia, l'amore vince tutto. Poiché il tempo ritorna, Veronica e Pretorio si ritroveranno e insegneranno ancora perché è il loro destino eterno e il modello per infinite altre coppie che hanno fatto la stessa promessa dall'inizio dei tempi, trovarsi e vivere insegnando la via dell'amore insieme. Chi ha orecchie per intendere, intenda. La leggenda di Veronica e Pretorio, gli insegnamenti dell'amore e dell'unione sacra, così come sono conservati nel Libro Rosso. Palazzo di Verdun, città di Stenay, regione della Lorena, ottobre 1069. Di sicuro era brutto e deforme, ma non così mostruoso come se lo aspettava, finché non apriva bocca. Matilde aveva di fronte l'uomo che doveva sposare, dall'altra parte dell'immenso e riccamente ornato salone per i banchetti del Palazzo di Verdun. Si era vestita con cura, facendo del suo meglio per sembrare il più femminile possibile, una duchessa a tutti gli effetti. Indossava un raffinato abito di seta color schiuma di mare, ricamato con fili dorati, e portava ciondoli d'oro abbinati che le aveva regalato il patrigno. I suoi magnifici capelli erano sciolti, le fluttuavano fino alla vita intrecciati e eleganti catenelle d'oro. Erano stati lasciati a cenare da soli per cominciare a fare conoscenza. Il giovane Goffredo somigliava abbastanza al padre. Così, se Matilde socchiudeva un po' gli occhi, le risultava quasi tollerabile alla vista. Mentre Goffredo più anziano era alto e magro, il più giovane era grosso e corpulento. Non era proprio obeso, ma la sua deformità senza dubbio gli rendeva impossibile compiere molto esercizio fisico. E allo stesso modo era un peccato che l'espressione intelligente e furba che animava il volto di Goffredo il Vecchio fosse del tutto assente da quello del figlio. I suoi lineamenti erano contratti in un perenne cipiglio. Matilde non sapeva ancora se quello facesse parte della sua leggendaria malformazione o se gli anni di amarezza gli avessero semplicemente segnato il volto. La gobba da cui derivava il suo soprannome era un difetto congenito. Il suo patrigno le aveva spiegato che il figlio era nato con una sfortunata malformazione che gli aveva lasciato la schiena incurvata in modo piuttosto grave. Le conseguenti insicurezze che questo aveva creato in lui da bambino erano state esacerbate dalle crudeltà che gli erano state inflitte a causa del suo aspetto. Tutto ciò lo aveva trasformato in un essere litigioso e difficile. Inoltre, poiché aveva uno scarso controllo del suo corpo, era diventato ossessionato da tutto quello che poteva controllare, compresi i suoi possedimenti in Lorena, le pregustate acquisizioni toscane e la sua promessa sposa. Tuttavia il patrigno aveva assicurato a Matilde che il giovane Goffredo non era un uomo crudele, anche se non era molto affabile, e che alla fine avrebbe imparato a trattarla con benevolo rispetto. In quel momento, però, non sembrava affatto benevolo. Cominciò subito con il farle un elenco di tutte le cose che non avrebbe tollerato da parte sua. Mi hanno riferito che sei ostinata e che spesso ti comporti in modo indecoroso per una donna. Mentre un simile comportamento può essere accettabile nelle selvagge regioni della Toscana, non è certo appropriato in un luogo civilizzato come la Lorena. Non nei miei territori, non da parte di mia moglie. Non uscirai da questa casa se non abbigliata in modo adeguato con un sogolo e un velo che coprano sempre i tuoi capelli contro natura. Non permetterò che gli uomini ti guardino con bramosia a causa del tuo aspetto lascivo. È noto a tutti che le donne con i capelli rossi sono dissolute e si trovano soltanto nei bordelli. Vengono considerate consorti del demonio, pertanto nessun uomo per bene in Lorena prende in moglie una donna dai capelli rossi. E se io sono allarmato dal fatto che la tua chioma sia così oscena perché ero stato informato del tuo aspetto, ma non mi era stato descritto in termini così vividi. Ricorda che alcune donne qui hanno perso la vita solo perché avevano le tue oltraggiose caratteristiche. Devi indossare il soggolo per il tuo bene e anche per proteggere me da un tuo eventuale comportamento lascivo. Se mi disobbedirai, ti farò radere la testa e te la farò nascondere sotto un velo. Inoltre devi capire che quando saremo sposati diventerò il nuovo duca di Toscana e mi occuperò io dell'amministrazione di quei territori. Il fatto che mio padre ti abbia permesso di farlo è una vergogna, oltre che una dimostrazione del suo grave stato di salute e della sua debolezza. Chiaramente questo è anche il motivo per cui non ti ha mandato da me a 16 anni come mi era stato promesso. Se avessi sospettato una simile debolezza, sarei venuto in Toscana anni fa per sistemare le cose. L'ultima affermazione del gobbo, cioè che avrebbe governato la Toscana, la sua Toscana, tolse definitivamente a Matilde l'appetito. Provò l'impulso di lanciargli il coltello, ma con uno sforzo di volontà riuscì a tenere placidamente le mani in grembo. Preferì restare in silenzio. Se avesse aperto bocca avrebbe senz'altro detto troppo, ma il suo promesso sposo non aveva ancora finito con la litania. Mi hanno riferito che hai portato con te un confessore, un certo Fra Patrizio da Lucca. Gli parlerò per accertarmi che sia adatto a risiedere nel mio palazzo, poiché mi pare di capire che sei legata a indecorose eresie che provengono dalla Toscana. In casa mia ti comporterai come una vera cattolica, è chiaro? Matilde non sapeva che cosa fosse più offensivo: il fatto che le stesse dando ordini, il fatto che fosse terribilmente disinformato, o il fatto che le parlasse come se fosse la scema del villaggio. Era furibonda, ma non lo diede a vedere, era più furba di lui. Infinitamente più furba, doveva muoversi in modo strategico, calcolando sempre le conseguenze. Quella era una guerra e sarebbe stata piena di battaglie che lei avrebbe dovuto vincere se voleva conservare la sua libertà e i suoi possedimenti. Per lei, i campi di battaglia sarebbero stati il tavolo da pranzo e la camera da letto. Sgranò gli occhi color acquamarina e spiegò con aria innocente: Ma mio signore, il mio confessore non è di Lucca, viene dalle pie terre di Calabria, ve ne potrete rendere conto all'istante dal suo accento e dalla sua carnagione, e non ha il benché minimo legame con le eresie della Toscana. In effetti è stato scelto per prepararmi a diventare una moglie cattolica, pia e degna di voi. Goffredo la guardò per un attimo, prima di esprimere la sua approvazione con un grugnito e di addentare il pollo con avidità. I suoi modi a tavola erano disgustosi, ma almeno quando aveva la bocca piena non parlava. Il resto del pasto si svolse in relativo silenzio, tranne che per i rumori che il gobbo emetteva nel divorare il cibo. Le ultime parole che le rivolse prima di congedarsi furono persino più deliziose delle sue affermazioni introduttive. Voglio avere molti figli e mi aspetto subito un maschio da te. Spero solo che a 23 anni tu non sia troppo vecchia per darmi ciò che chiedo. Se mi fossi stata concessa a 16 anni, a quest'ora avremmo la casa piena di bambini. Se si scoprirà che ormai sei troppo in là con gli anni, prenderò una moglie più giovane. e conserverò i tuoi possedimenti. Non mi importa di quella che è la consuetudine delle regioni barbariche della Toscana. Questo è il diritto di un nobiluomo di Lorena. Matilde si morse la lingua finché non sanguinò. Se questo voleva dire nobiluomo in Lorena, lei si sarebbe volentieri definita una barbara.